Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Essere presenti è tutto, ovvero due regali. Siamo in un team, ma spesso non lo sappiamo. Noi e la vita. Ogni giorno noi e la vita lavoriamo insieme verso una destinazione di cui ancora magari non siamo sicuri, ma che a me sembra abbia a che fare con la nostra crescita personale e con rendere il mondo un posto migliore. Il compito della vita in questa squadra è farci fare esperienze. Il nostro di compito è abbracciare quelle esperienze, viverle, crescere e ogni volta che è possibile usarle per aiutare gli altri. Non sto dicendo che sia facile, eh? Qualsiasi cosa richieda un cambiamento di strada, città, scarpe, relazione, lavoro, alimentazione, filosofia, sarà sempre difficile. E la vita, lì in squadra con noi, i cambiamenti ce li propone di continuo. Facciamo fatica in ogni esperienza, che siano difficili oppure belle. Quando le esperienze sono dolorose, a volte l'unica cosa che riusciamo a fare è viverle un minuto alla volta, un respiro alla volta. Quando le esperienze sono belle, siamo più ambigui. A volte le guardiamo appena dicendo che cosa carina e ci giriamo subito a fare qualcos'altro. Oppure non ci sentiamo pronti per quella cosa che magari abbiamo anche tanto desiderato e lavorato perché accadesse e quindi ce la viviamo con un'ansia pazzesca, sentendoci inadeguati. Cosa accadrebbe se invece di pretendere di essere nato pronto, come dice il personaggio di Kurt Russell in Grosso Guai a Chinatown, fossimo semplicemente e profondamente presenti? In ogni tipo di esperienza che la nostra compagna di squadra, la vita, ci offre, ha senso fermarsi un secondo e pensare: ok, questo è quel che c'è. Essere presenti è tutto. Oggi è il mio compleanno. E no, non sono nata pronta come Kurt Russell. Continuo a imparare ad essere più presente, a fidarmi della vita, a ricordarmi che siamo in squadra insieme. Per ricordarmelo io uso lo yoga e uso il respiro. Quindi oggi ti regalo il respiro e ti regalo lo yoga. Il respiro si e ci adatta continuamente alle attività quotidiane. Appena svegli abbiamo un respiro diverso rispetto a quello che abbiamo durante una riunione condominiale, che è ancora diverso da quello che abbiamo quando cantiamo una ninna nanna. L'aspetto magico del respiro è che modificando il respiro otteniamo effetti energetici generali diversi. Se c'è agitazione possiamo calmarci. Se c'è confusione possiamo radicarci. Se c'è spossatezza possiamo ricaricarci. La presenza, te lo dicevo, è la base di tutto, il fondamento su cui si basa qualsiasi cambiamento. Quindi, senti come stai e come respiri. Valuta come ti serve sentirti rispetto alle attività che ti aspettano. Se ti serve uno stato energetico diverso, modifica il respiro, cambia lo stato energetico e vai. Infatti a volte ci si trova molto carichi, ma è tardi e sarebbe meglio rilassarsi e dormire. Oppure di prima mattina ci sono residui di stanchezza, ma abbiamo necessità di avere più prontezza. Ecco, nel giorno del mio compleanno ti regalo questo audio dedicato alla magia del respiro. Come faccio a regalarti lo yoga? Ti invito alla lezione aperta online di Yoga del Potere martedì 6 dicembre dalle 19.30 alle 20.30. Puoi iscriverti al link che trovi sulla pagina oppure rispondere a me direttamente a questa newsletter e ti inserirò nell'elenco delle persone che partecipano. Adesso fai tu un regalo a te. Sii presente. Ti abbraccio fortissimo. Laura.